Dopo oltre 10 mesi di gestazione, vede luce l'ultimo CD serio che faccio, quella che si prospetta essere la prima ed ultima fatica discografica del rapper Double G. Il titolo ci catapulterà nei panni del protagonista, un ragazzo calato in un mondo parallelo ma molto simile al nostro, nel quale dovremmo destreggiarci tra le varie minacce dei prof, i problemi con l'alcol e l'autorità dei genitori. Non mancheranno fedeli alleati che aiuteranno il nostro protagonista nella sua avventura. Infatti, con l'andare avanti nel CD, ci imbatteremo nel simpatico cantante non melodico Michele Duraccio e in Bonsai, un altro rapper venuto da lontano, che aiuterà il nostro Double G nelle sue peripezie. Il comparto grafico, curato personalmente dal designer Giovanni Lamarca, si presenta generalmente demenziale, degno del titolo. Il sonoro si distacca dai canoni dell'hip hop e da qualsiasi altra convenzione del genere, risultando così una scommessa che il titolo propone a tutti gli ascoltatori. Tirando le somme, l'ultimo CD serio che faccio è un'opera veramente pessima e che io non ascolterei mai. Auguri.